Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Il punto per me è un altro, ossia che come si è stati garantisti da parte mia e da parte nostra nei confronti di qualunque cittadino, si è garantisti nei confronti del padre di Matteo Renzi e anche di coloro i quali sono coinvolti. Poi è evidente che le inchieste devono fare il loro corso e la stessa fiducia nei magistrati che esprime il Partito Democratico esprimo anch'io, ma dire che questa inchiesta avrà una conseguenza sul governo mi sembra un'iperbole infondata sulla realtà, non fondata sulla realtà. Un'iperbole infondata e non fondata sulla realtà, dice Alfano, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, a proposito di possibili ripercussioni politiche che questa inchiesta Consip che coinvolge Tiziano Renzi, anche se naturalmente bisogna verificare a che punto, a che grado e se effettivamente poi si riscontreranno prove nei suoi confronti, insomma, quali potrebbero essere le ripercussioni politiche. Lui dice è un'iperbole, non sul governo, sulla politica non può succedere nulla, però insomma il dubbio è forte e anche la possibilità che ci possano essere appunto delle ripercussioni politiche, anche perché è notizia di oggi che Denis Verdini, leader di ALA e parlamentare, è stato condannato a 9 anni per il crack dell'ex credito cooperativo fiorentino. Quindi insomma varie faccende che agitano ulteriormente il dibattito politico e la situazione politica in Italia. Ci occuperemo di questo, così come parleremo anche della condanna da parte della Corte dei diritti umani di Strasburgo nei confronti dell'Italia per non aver protetto una madre e un figlio da un padre e marito violento, una vicenda terribile accaduta a Udine di un uomo violento che maltrattava da tanto tempo la moglie. Un giorno il figlio di 19 anni è intervenuto all'ennesima aggressione, è stato ucciso dal padre che poi ha cercato di uccidere anche lei, che invece poi è stata portata in un centro antiviolenza. Insomma, una bruttissima storia come ce ne sono tante, tantissime in Italia da tanto tempo, negli anni ne parliamo continuamente, specie qui a Effetto Notte. Quindi adesso è arrivata la condanna dalla Corte di Strasburgo. Ci occuperemo anche di questo, quindi moltissimi fatti per voi, i vostri commenti, pagina Facebook di Effetto Notte, come sempre, che è lì per voi giorno e notte, oppure la pagina per WhatsApp ed SMS, scusate, il numero per WhatsApp ed SMS, che è 349-238-6666, lo ripeto piano, 349-238-6666. Quindi prima, come sempre, riassunto della giornata e poi i temi da approfondire insieme agli ospiti. Il crack dell'ex credito fiorentino, Denis Verdini condannato a 9 anni, l'accusa è bancarotta e truffa. L'inchiesta Consip, l'ex amministratore delegato Marroni della Consip accusa su di me pressioni per le gare d'appalto da Tiziano Renzi e l'imprenditore Carlo Russo, il padre dell'ex premier che sarà interrogato domani, si difende e dice mai preso soldi. Stati Uniti, i democratici americani all'attacco del segretario della giustizia Sessions per i suoi rapporti con la Russia, Trump gli conferma la sua totale fiducia. Violenza contro le donne, la Corte di Strasburgo condanna l'Italia. Non ha protetto una madre e un figlio dal marito violento. Tragedia in montagna, 3 morti e 5 feriti per la valanga di questo pomeriggio in Val d'Aosta. Cinema, la gaffe degli Oscar, licenziato l'uomo che ha consegnato la busta sbagliata ai presentatori. Scienza ha creato il primo embrione artificiale, è di un topo, potrebbe essere sviluppato senza gravidanza e aiuterà a capire alcune malattie. Partiamo quindi dal fronte giudiziario, dall'inchiesta Consip che ha portato in carcere l'imprenditore Alfredo Romeo. Per lui lunedì 6 ci sarà l'interrogatorio di garanzia, sarà interrogato invece domani a Roma Tiziano Renzi, padre dell'ex presidente del Consiglio, accusato di traffico di influenze, che però si difende e dice mai preso soldi, non ho nulla da nascondere, mi interroghino, è un incubo. E tra poco appunto torneremo sugli sviluppi di questa inchiesta. Ma sentiamo adesso a questo proposito il commento di Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore. È facile a questo punto immaginare che l'inchiesta dei magistrati sulla Consip, la società del Ministero dell'Economia per gli acquisti della pubblica amministrazione, avrà forti conseguenze sul quadro politico e di governo del Paese. Questo caso giudiziario vede in prima fila anche il padre dell'ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi, oltre che il Ministro dello Sport Luca Lotti. Ed è chiaro che la vicenda avrà un forte impatto sugli equilibri del Partito Democratico, che a fine aprile terrà le elezioni primarie per la leadership del partito e la scelta del candidato premier alle prossime elezioni. Ma non solo, anche il governo Gentiloni viene colto in un momento particolarmente delicato, nel pieno della discussione con l'Europa sugli indirizzi della politica economica e in vista del G7 di fine maggio che si terrà in Italia. Quali che siano gli sviluppi dell'inchiesta Consip, va però detto che non un centimetro può essere perso sulla strada della governabilità di un paese a bassa crescita ed altissimo debito pubblico. Perdere questa bussola significherebbe aggiungere ad una pagina nera un ulteriore enorme danno. E ora, negli Stati Uniti, dove c'è bufera sul ministro della giustizia Jeff Sessions, accusato di aver mentito sotto giuramento per aver negato contatti con emissari del Cremlino durante la campagna per Trump. I democratici ne chiedono le dimissioni, evocano l'impeachment, lo stato in messa d'accusa. La Casa Bianca lo difende, lui si dice disponibile a ricusare se stesso nell'inchiesta, quindi a sottrarre il suo giudizio nell'inchiesta dell'FBI sul Russia Gate e su questo nuovo guaio. Per l'amministrazione Trump torneremo poi a parlare collegandoci direttamente con gli Stati Uniti. La Russia fa paura alla Svezia, che ha annunciato la Svezia che ripristinerà il servizio militare di leva obbligatorio, uno strumento ritenuto fino a non molto tempo fa ormai obsoleto in Occidente e che Stoccolma aveva abolito nel 2010. La Svezia, che non è neanche membro della NATO, ha annunciato per il 2018 e 2019 l'arruolamento di un primo contingente di 4.000 uomini e donne nati nel 1999, il loro addestramento. La Russia, dalla sua enclave di Kaliningrad, si fa sempre più aggressiva. Nel Baltico il mondo ha ravvivato la corsa al riarmo, anche nucleare, mentre l'Europa rischia di trovarsi sempre più sola, divisa a fronteggiare l'America di Donald Trump. Manterrà fede alle sue minacce di parziale disimpegno sul fronte europeo e della NATO. In questa situazione quindi la Svezia ha preso questa decisione. E ora in Francia, con la campagna elettorale per le presidenziali, animatasi oggi con la revoca dell'immunità europarlamentare a Marine Le Pen nel quadro di un procedimento d'inchiesta davanti al tribunale di Nanterre per aver diffuso sul suo profilo Twitter immagini di esecuzioni dell'ISIS, intanto sale nei consensi il candidato Macron. Emmanuel Macron vola nei sondaggi. Secondo l'ultima rilevazione del quotidiano Les Echos, l'ex ministro dell'economia in forte crescita raccoglierebbe al primo turno il 24% dei voti, appena alle spalle di Marine Le Pen, stabile al 27%, e distanziando il candidato della destra François Fillon, sceso al 19%, probabilmente destinato a perdere ancora consensi, stando almeno alle defezioni che si moltiplicano nel suo campo dopo l'annuncio dell'avviso di garanzia in arrivo e il durissimo scontro istituzionale con la magistratura. Lo scenario più probabile è ormai quello di una destra che per la prima volta non riuscirebbe a superare il primo turno delle presidenziali, mentre Macron, che ha presentato un programma di riforme convincente, concreto e realistico, pare destinato, a meno di nuove clamorose sorprese, a diventare il prossimo ospite dell'Eliseo, visto che al secondo turno non dovrebbe avere problemi a battere la leader dell'estrema destra. In caso di vittoria, per la Francia sarebbe una novità clamorosa, una vera rivoluzione, questa volta pacifica. Mai il paese ha avuto un presidente così giovane, 39 anni, indipendente e al suo primo appuntamento elettorale. Marco Mussanè, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi. Ancora all'estero con la Siria, il ministro della difesa russo ha informato Vladimir Putin che le truppe governative siriane hanno concluso un'operazione per riprendere Palmira col sostegno delle forze aeree russe. E adesso parliamo di violenza contro le donne, la Corte di Strasburgo condanna l'Italia. La Corte Europea dei Diritti Umani ha condannato l'Italia per non aver agito efficacemente nel proteggere una donna e suo figlio dalla violenza del marito. La lentezza delle autorità italiane ha creato infatti una situazione di impunità che ha poi portato all'uccisione del ragazzo e al tentato omicidio della moglie. Si tratta della prima condanna dell'Italia da parte della Corte di Strasburgo per un reato riguardante la violenza domestica. Il caso è avvenuto a Remanzacco, in provincia di Udine, il 26 novembre del 2013, quando un uomo, ora in prigione, uccise il figlio 19enne e tentò di ammazzare anche la moglie dopo che quest'ultima lo aveva ripetutamente denunciato, così come alcuni suoi vicini, affinché le autorità intervenissero. La sentenza dei giudici di Strasburgo, che diventerà definitiva fra 3 mesi se le parti non faranno ricorso, ha condannato l'Italia per la violazione dell'articolo 2, diritto alla vita, dell'articolo 3, divieto di trattamenti inumani e degradanti, e dell'articolo 14, divieto di discriminazione, della Convenzione Europea dei Diritti Umani. La Corte ha riconosciuto alla donna, sopravvissuta alla violenza del marito, 30.000 euro per i danni morali e 10.000 per le spese legali. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E nel corso di questa puntata di Effetto Notte cercheremo di raggiungere una delle avvocate che è ricorsa su questa vicenda appunto alla Corte di Strasburgo. E a questo proposito è stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di istigazione al suicidio un poliziotto di 45 anni, marito di Licia Gioia, marescialla dei carabinieri di 32 anni, morta lunedì notte nella sua abitazione in Contrada Isola alle porte di Siracusa. Un suicidio, secondo la versione fornita dal marito, indagato come atto dovuto per avere l'opportunità di partecipare agli accertamenti tecnici come l'autopsia. E adesso parliamo di questa tragedia della montagna. In realtà ci sono state due valanghe oggi, quasi in contemporanea, intorno all'ora di pranzo in Val d'Aosta. Hanno coinvolto sci alpinisti in fuoripista, una a Colle San Carlo tra La Tuille e Morgé, dove fortunatamente non ci sono stati feriti né persone coinvolte. Ben diverso il bilancio per il distaccamento avvenuto a Val Veny. Ci sono stati 3 morti, una persona in gravi condizioni in prognosi riservate, 4 feriti. Sicuramente l'aumento delle temperature è una concausa di questi incidenti, ma non l'unico motivo, come ha spiegato il direttore del soccorso alpino valdostano Adriano Favre al nostro Adriano Palazzolo. Penso che in questo caso ci sia un errore di valutazione, perché evidentemente il gruppo di persone che si è trovato tutta insieme nello stesso momento, nello stesso luogo, forse un po' eccessivo dal punto di vista del controllo della situazione. Il pendio era evidentemente sovraccarico di sciatori. Unito a questo, un po' di rialzo della temperatura ha fatto sì che il manto superficiale, quello della neve fresca, ultima venuta, che sui 40-50 centimetri, abbia collassato e abbia tirato giù tutti. E di neve e di questi sbalzi improvvisi di temperature Adriano Palazzolo ha parlato con Paolo Corazzon, che ha fatto un quadro delle previsioni per il fine settimana per chi vorrà andare in montagna. Arriveranno nuove nevicate sull'arco alpino, mediamente oltre i 1200-1300 metri, però in questo mese di marzo, come avviene tutte le primavere, il pericolo valanghe rimane molto alto, le escursioni termiche spesso sono marcate, in più queste perturbazioni sono accompagnate alle volte anche da venti sostenuti che rendono il manto nevoso ancora in più instabile, quindi massima attenzione. Fortunatamente sono sempre segnalati i livelli di attenzione appunto per il pericolo valanghe. Queste escursioni termiche sono dei fenomeni eccezionali o ormai, visto che sono sempre più frequenti, sono diventati la nuova normalità? Purtroppo di nuove normalità ce ne sono sempre di più. Queste escursioni termiche, tra l'altro, nei periodi di mezzo, quindi ad esempio in questo mese di marzo, saranno sì la normalità, un po' perché effettivamente i cambi di stagione portano a questi sbalzi di temperature e un po' perché, come dicevamo, ci sono novità o quantomeno nuove situazioni nell'ambito del clima italiano che tra l'altro implicano anche questi sbalzi di temperatura così marcati. Poi, come sempre, ritornerà domani Corazzon nella puntata del venerdì di Effetto Notte. Adesso parliamo del conto alla rovescia per la rottamazione delle cartelle di Equitalia. Entro il 31 marzo è possibile presentare la domanda di adesione alla sanatoria, che consente di scontare dal debito gli importi relativi alle sanzioni e agli interessi di mora. Tutti i dettagli li trovate comunque nella guida pratica in edicola domani 3 marzo sul Sole 24 Ore nelle pagine di Norme e Tributi. E adesso una notizia che riguarda il cinema. Brian Callinan, incaricato di consegnare ai presentatori degli Oscar le buste con i nomi dei vincitori, non parteciperà mai più alla cerimonia dopo l'incredibile errore sulla statuetta al miglior film, inizialmente annunciato per La La Land e non Moonlight. In sostanza è stato licenziato. Insieme a lui è stata anche allontanata la collega Marta Ruiz, a rivelarlo un portavoce dell'Academy of Motion Picture Arts. E poi, per chiudere, una importante scoperta scientifica: si parla del primo embrione artificiale che è una realtà. It's not just curiosity, because this is also the stage of development that many pregnancies fail. Nessuno sapeva come funzionasse e la curiosità alimenta la scienza ed il progresso. Ma non è solo questo, si tratta anche di migliorare la vita scoprendo i processi invisibili che determinano l'origine di molte malattie legate alle fasi iniziali dello sviluppo. Significa aiutare le famiglie che cercano di avere un figlio. Magdalena Zenica-Goetz, scienziata polacca che dal 95 governa il Dipartimento di Fisiologia, Sviluppo e Neuroscienze scienze all'Università di Cambridge è il motore di un gruppo di lavoro che sta aprendo la scatola nera dello sviluppo della vita. Quei 6 giorni, sono 4 per i topi, in cui l'alchimia ancora sconosciuta si incammina verso il successo o invece il fallimento. Definire la piattaforma e l'ambiente dove sviluppare in laboratorio le condizioni naturali è stato il successo che ha portato alla creazione del primo embrione artificiale. È quello di un topo e si è formato a partire da cellule staminali che si sono assemblate dando origine a una struttura tridimensionale simile ad un embrione naturale. Entrare in questi meccanismi, ha detto Zenica Goetsch, è come scoprire un nuovo pianeta. Ancora tutto da esplorare. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore. Bene, con questo direi che abbiamo esaurito il riassunto della giornata e adesso cominciamo tra poco, dopo la viabilità, ad approfondire alcuni temi in particolare. Cominceremo appunto dall'inchiesta Consip, sempre più intricata, e poi c'è anche la vicenda Verdini, la condanna a 9 anni di reclusione. Insomma, molti fatti. Comincio a vedere alcuni vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, oppure gli sms e WhatsApp al 349-238-6666. Ci sono, diciamo, opinioni molto differenti da chi vuole che le colpe dei padri ricadano sui figli, come questo ascoltatore Gianni da Bologna, che dice: non ci sono più parole per questi politici, ma non era Renzi che portava il nuovo e soprattutto tutti onesti, la realtà tutti uguali. Comunque, insomma, di una prova contraria, presunzione di innocenza per Tiziano Renzi, e poi perché i figli dovrebbero centrare necessariamente con i padri. E poi invece addirittura questo ascoltatore lancia questa tesi carissima, dice: Tiziano Renzi è innocente, la faccenda è intricata, ma di fatto c'è D'Alema dietro. Sa che D'Alema è considerato un tramatore, mi sembra un po' eccessivo, ma tutto può essere, si vedrà. Insomma, comunque la magistratura che deve fare il suo compito, ne parleremo comunque tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Notizie naturalmente ne sentite durante tutti i 60 minuti qui a Effetto Notte, Roberta Giordano sempre con voi, però il riassunto ascoltatelo sempre all'inizio. Adesso cominciamo invece a entrare nel cuore di alcuni temi in particolare. Partiremo con il fronte giudiziario, con l'inchiesta Consip e anche con la condanna per Denis Verdini in primo grado per il momento a 9 anni, e poi gli altri argomenti che ho già anticipato all'inizio. C'è Gianfranco che scrive: con tutte le condanne, tutti i processi che ha in corso, come fa Verdini a essere ancora libero di scorazzare in Parlamento? È vergognoso, dice Gianfranco. Però per il momento siamo tra l'altro al primo grado, sapete che si arriva fino alla Cassazione in Italia, quindi c'è sempre la presunzione di innocenza. 349-238-6666 per i vostri messaggi, oppure pagina Facebook di Effetto Notte. Sto guardando altri messaggi anche su altri temi. Però vi direi adesso, per chi non aveva acceso puntualmente alle 21, ricordiamo intanto i fatti principali. L'amministratore, l'ex amministratore delegato di Consip Marroni, accusa, dice, ho avuto pressioni per le gare d'appalto da Tiziano Renzi e Verdini. Verdini che tra l'altro oggi è stato condannato in primo grado per il crack dell'ex credito fiorentino a 9 anni. E il Movimento 5 Stelle chiede una mozione di sfiducia nei confronti del ministro dello sport Lotti, che dice sono attacchi vergognosi. Cala la disoccupazione dei giovani, secondo l'Istat a gennaio cala al 37,9 dal 39,2 di dicembre. Poi Russia Gate, ancora nei guai l'amministrazione Trump, questa volta si tratta del ministro della giustizia Jeff Sessions, avrebbe mentito sotto giuramento, avrebbe detto di non aver avuto mai rapporti con la Russia, e ne parleremo. Poi l'Italia condannata dalla Corte Europea di Strasburgo per i diritti umani perché non ha protetto una famiglia, una madre e un figlio, dal padre violento. Il figlio poi è stato ucciso. E Bruxelles che dice ancora una volta che i paesi ricollochino i migranti o ci saranno sanzioni, e siamo all'ennesima puntata. E poi defezione nella squadra di Fillon, candidato della destra in Francia, dopo lo scandalo che lo sta travolgendo, Penelope Gate, ma lui prova a resistere. E poi la valanga Courmayeur, 3 le vittime, c'è anche un italiano. E dunque ritorniamo sugli sviluppi dell'indagine Consip. Ne avevamo in parte parlato ieri, ma ci sono delle novità. La Consip, ve lo ricordo, è la centrale di spesa della pubblica amministrazione, una società pubblica che si occupa di controllare e razionalizzare gli acquisti appunto della pubblica amministrazione. Ieri dicevamo che era stato arrestato l'imprenditore campano Alfredo Romeo per corruzione nell'inchiesta appunto romana degli appalti Consip. Dicevamo ieri che l'indagine sugli appalti Consip nasce dall'inchiesta della Procura di Napoli sulle attività dell'imprenditore Alfredo Romeo, che era stato in passato già coinvolto in una tangentopoli partenopea, in seguito a una grande quantità di intercettazioni telefoniche e ambientali, proprio per capire qualcosa di più di questa attività di Romeo, sono emerse delle cose importanti, un'ampia documentazione. Non si parla solo di appalti napoletani assegnati alle aziende di Romeo, ma è emersa, secondo i magistrati, proprio l'esistenza di un sistema Romeo di tangenti e favori in cambio di appalti. Per l'accusa, Romeo avrebbe dato 100.000 euro all'ex dirigente della società di Consip, Marco Gasparri, che gli forniva informazioni riservate sui bandi di gara. Nell'inchiesta sono indagati per traffico di influenze anche Tiziano Renzi, padre di Matteo Renzi, e l'imprenditore Carlo Russo. Lunedì 6 sarà interrogato, ci sarà l'interrogatorio di garanzia per Romeo, e oggi l'Espresso pubblica i verbali con le rivelazioni dell'amministratore delegato di Consip, Luigi Marroni, ascoltato come testimone dai PM di Napoli dicembre scorso. Secondo il racconto, che dice l'Espresso ancora da verificare, nell'interrogatorio Marroni avrebbe parlato di un ricatto, un vero e proprio ricatto subito da un sodale di Tiziano Renzi, l'imprenditore Carlo Russo, con pressanti richieste di intervento sulle commissioni di gara per favorire una specifica società. Marroni avrebbe parlato anche di incontri riservati con il papà di Renzi a Firenze e delle aspettative ben precise da parte di Denis Verdini e di Tiziano Renzi. Insomma, una questione, una vicenda sempre più intricata. Cara Sara Monaci, ci ha aiutato ieri del Sole 24 Ore un po' a capire, aiutaci anche oggi, anche perché poi c'è il nome di Denis Verdini anche che ricorre, perché oggi c'è stata la condanna a 9 anni, insomma. Sì, poi Denis Verdini lo ricordo un po' per caso, ricorre in realtà in entrambe le inchieste. Allora, gli sviluppi di oggi sono i seguenti. Ci sono due considerazioni importanti da tenere, di cui tenere conto. Da una parte, appunto, come hai anticipato tu, l'amministratore delegato di Consip, Luigi Marroni, avrebbe dichiarato nei suoi interrogatori rilasciati ai procuratori di Napoli, da cui l'inchiesta è partita, che in realtà lui avrebbe avuto delle pressioni da parte di Russo, e poi in realtà ci sarebbe stato anche un incontro con il padre di Renzi, avvenuto in Piazza Santo Spirito a Firenze, proprio da lui sarebbe stato rassicurato nel seguire le indicazioni di Russo per favorire Romeo. Lo ricordo che Tiziano Renzi è in buoni rapporti, che non nega, sia con Russo, questo imprenditore di Scandicci del settore farmaceutico, che con Marroni. Quindi avrebbe fatto, diciamo, in qualche modo da tramite. Marroni dice di aver subito delle pressioni a cui resistette, e diceva appunto che secondo Renzi il suo destino era in qualche modo nelle mani sue, di Tiziano Renzi e di Denis Verdini, ma non si sarebbe fatto per questo impressionare. L'altra vicenda è sempre interessante, perché ci aiuta a capire proprio qual è il ruolo di Tiziano Renzi, che, senza girarci intorno, un po' anche la parte più interessante di questa inchiesta, perché ha dei risvolti politici. Ecco, la questione importante è che ci sono anche delle dichiarazioni che sono state rilasciate in un'intervista oggi a Repubblica da Mazzei, un commercialista ed esponente del PD di Napoli. Lui avrebbe detto, derelato, come si dice in termini tecnici, cioè riferito da terze persone, ovvero da Romeo, che ci sarebbe stato proprio un incontro a tere tra Romeo, tra Russo e tra Renzi. Quindi questo concerto, questo accordo, da cui Tiziano Renzi si difende e dice che non è mai avvenuto, in realtà secondo qualcuno sarebbe non soltanto esistito, ma sarebbe stato proprio consolidato attraverso delle scene in cui ci si sarebbe visti per consolidare le strategie per arrivare alla Consip. Quindi diciamo, è da capire un po' se adesso questi incontri siano veramente avvenuti oppure no, e non è un caso che la difesa di Tiziano Renzi insista proprio su questo punto, non sul fatto che non si conoscessero, perché è evidente che fossero amici di vecchia data, ma sul fatto che questi incontri siano avvenuti, perché adesso c'è l'accusa di traffico illecito di influenze, ma potrebbe chiaramente poi potrebbero esserci successivi sviluppi se, immaginiamo, una persona, Tiziano Renzi, riceve delle indicazioni da degli amici e poi riporta queste indicazioni sotto sotto forma di pressioni ad un pubblico ufficiale come Marroni. Ecco, è facile capire che poi l'inchiesta salirebbe di livello. Quindi diciamo lo snodo fondamentale è capire se davvero Tiziano Renzi abbia o meno partecipato a questi incontri e che livello di consapevolezza avesse quando Carlo Russo, questo imprenditore di Scandicci, parlava di lui, se davvero fosse stato a conoscenza di questa sorta di carta da giocare che Russo utilizzava, il fatto cioè di conoscerlo direttamente, oppure se non ne fosse affatto a conoscenza, come sottolinea il suo avvocato. Sembra un fatto formale, ma io credo che questo sia uno snodo fondamentale. Dal punto di vista dell'inchiesta ad oggi quindi siamo a questo. Ricordo però che domani verrà ascoltato proprio Tiziano Renzi dai procuratori a Roma. Che lui continua a dirsi innocente, dice non ho mai preso né chiesto soldi, un incubo. Non solo, dice proprio di non aver avuto questi famosi incontri, non aver preso soldi. Ricordo, si parla di remunerazioni e quindi quasi di un libro paga mensile in una carta, in un decreto di perquisizione di cui che abbiamo letto ieri, che abbiamo avuto modo ieri di visionare, e al libro paga sarebbero stati sia Russo che Renzi. Cosa avvalorerebbe questa tesi? Il fatto che nella pattumiera del primo filone di inchiesta, diciamo in una pattumiera, sia stato ritrovato un pizzino scritto a mano da Romeo in cui c'era scritto 30.000 per T puntato, 5.000 per CR. Ovviamente qui l'interpretazione può essere più o meno fantasiosa, più o meno pertinente, però diciamo che nelle ricostruzioni e negli atti ci sono anche queste documentazioni scritte a mano. Quindi per il momento siamo a questo. L'interrogatorio di domani io credo che sarà un momento importante per capire il coinvolgimento di Tiziano Renzi. Poi si prosegue ovviamente con la corruzione relativamente a Consip, il ruolo di Romeo ovviamente è il più grave, perché Romeo avrebbe commesso la vera e propria corruzione nei confronti di un pubblico ufficiale, Marco Gasparri, un funzionario di Consip, e entrambi sarebbero invece indagati, accusati, Romeo ieri in custodia cautelare in carcere per corruzione, che è chiaramente il reato più grave in questa vicenda. Certo. Sara, leggo qualche messaggio tra i tanti che stanno arrivando dalla pagina Facebook di Effetto Nota, il 349-238-6666. Dice questo ascoltatore: è solo la punta di un iceberg. Consip, secondo me, 100.000 euro sono solo briciole che hanno trovato. Secondo me, tutti sapevano come su altro, ma nessuno interviene, purtroppo. Vabbè, si vedrà. Antonio scrive a proposito di ripercussioni politiche: dice, a parte queste ripercussioni, mi chiedo perché per Muraro e Raggi occorreva leggere le carte, mette tra virgolette, mentre per Renzi Senior è già stata emessa la sentenza del web annesso linciaggio digitale. Alessandro dice: dipende dai giornalisti, se il metro di giudizio sarà come quello usato per la Raggi le ripercussioni saranno molto pesanti, se sarà come quello usato per Renzi e il governo tra un paio di giorni avremo già dimenticato. Insomma, ognuno con le sue convinzioni. Alessandro di Battista scrive: con la condanna a 9 anni di carcere a Verdini crolla un altro mattone del castello del potere renziano, aprite gli occhi onesti simpatizzanti del PD, Renzi e Verdini sono la stessa cosa, legatissimi da anni, dice Verdini ha fatto affari anche col babbo di Renzi, dentro e fuori però, il Parlamento. Su questo precisiamolo, ma soltanto per dovere di cronaca, certo. L'inchiesta che vede condannato Verdini in primo grado riguarda 9 anni fa, quando Renzi probabilmente non era nemmeno, non ricordo se forse era presidente della provincia, chissà se sia ancora nella Margherita, no, infatti, e parliamo del credito cooperativo, una vicenda appunto che è iniziata 10 anni fa, poi veramente Verdini si è sbizzarrito dopo e ha altre inchieste come vediamo, ma questa nello specifico è qualcosa che è veramente lontana nel tempo, dal punto di vista proprio politico. Sara, dal punto di vista proprio politico, per l'appunto, delle ripercussioni politiche, tutto questo marasma, al di là appunto che poi si spera, no, sempre che le persone risultino innocenti, ma intanto diciamo getta un po' di turbolenza, no? Specie nel PD, nelle primarie che saranno breve. Sicuramente, poi diciamo che ci troviamo in una sorta di strano girone. Ai tempi del centrodestra c'erano le amiche, le amanti, qui ci sono i genitori, è stato il caso della Boschi, ora è il caso del padre di Renzi. Insomma, questi giovani politici vengono imbarazzati dai genitori. È evidente che qui c'è un tema politico, perché lo ricordo, dal punto di vista giudiziario i reati più gravi sono quelli della corruzione che sono contestati a Romeo e a Gasparri, ma è altrettanto evidente che se gli occhi sono puntati sul destino di Tiziano Renzi è perché evidentemente c'è una corsa per le primarie. Quanto questo fatto possa poi pesare sulla carriera politica prossima di Renzi è ancora da capire, è evidente però che tutta questa attenzione non rende nessuno tranquilli, perché nel PD è inutile negarlo, io sono a Milano e percepisco le questioni milanesi, parlando con i miei colleghi romani mi dicono altrettanto, ci sono comunque delle tensioni che potrebbero addirittura far spostare un po' l'ago della bilancia da una parte all'altra a seconda appunto di come si sviluppa questa inchiesta, perché c'è un altro dato interessante. Romeo, la ditta di Romeo, qualche anno fa, nel 2012 e 2013, finanziò, ed è un fatto acclarato e confermato dagli stessi esponenti del PD, la fondazione Open di Renzi, però lo ricordo, per delle elezioni regionali e per il sostegno, diciamo, alla candidatura di Renzi, però lo ricordo, Romeo dette diciamo dei finanziamenti, come si faceva un po' nella Prima Repubblica, un po' a tutti i partiti, quindi ovviamente adesso stiamo ricordando questo aspetto, qualcun altro ricorda il fatto che poi era ampiamente diffusa l'abitudine di finanziare più partiti, perché non si sa mai, però è evidente che adesso soprattutto il Movimento 5 Stelle sta tirando fuori questo increscioso finanziamento tra il 2012 e il 2013. A questo proposito però sentiamo Di Maio oggi del Movimento 5 Stelle, vicepresidente della Camera, che ha parlato della mozione di sfiducia del Movimento nei confronti però di Lotti, che è ministro dello sport, che dicevamo già ieri coinvolto a diverso titolo in questa vicenda, perché avrebbe anticipato, no, le informazioni sull'inchiesta che era in corso, lo spiegavi ieri, Sara? Sì. Quindi la questione, intendevi di Maio, giusto? Sì, questo sì, no, voglio far sentire Di Maio e poi ci rispieghi effettivamente qual è il ruolo di Lotti in tutto questo, del braccio, quello che è stato da tempo braccio destro di Renzi. Sentiamo Di Maio. Noi vogliamo che il ministro Lotti e tutto il giglio magico si allontanino dal governo, quindi per quanto ci riguarda abbiamo depositato una mozione di sfiducia al ministro Lotti, perché è inopportuno che stia nel governo finché questa vicenda non sarà chiara. Vi ricordo, stiamo parlando di un appalto da 3 miliardi di euro. Ci dicevi ieri di Lotti, no? Perché si fa il suo nome, Sara? Certo, no, ma è chiaro che adesso poi la speculazione politica utilizza anche qualsiasi strumento, però anche qui possiamo parlare dell'inopportunità di essere indagati e essere al governo, avere qualche carica istituzionale, ognuno su questo ha diritto anche alle proprie idee, chi è più garantista, chi è invece più tranchant. Però qui partiamo da fatti tecnici. Lotti non è indagato per l'appalto di cui lui sta ricordando, giustamente, di cui Di Maio sta giustamente ricordando la cifra. Lui è indagato per rivelazione del segreto d'ufficio. Qui siamo dentro un altro dossier, magari altrettanto increscioso, ma che non ha nulla a che vedere con le cifre o con delle remunerazioni o con la corruzione. Cioè qui probabilmente, questo sostengono gli inquirenti, Lotti avrebbe riferito ai vertici di Consip dell'esistenza di questa inchiesta, quindi avvertendoli che c'erano delle esattamente da qui la bonifica degli uffici, e lo ricordo, l'inchiesta riguarda anche due generali dei carabinieri, del 7 salta la macchia, quindi diciamo è incresciosa, non c'è dubbio, ma non è un'inchiesta per corruzione. Chiarissima Sara Monaci, a questo punto poi ci risentiremo per le prossime puntate di questa vicenda, ci lasciamo, grazie Sara Monaci, grazie a voi, buonasera. Buon lavoro. Ci prendiamo naturalmente come sempre a questo punto una pausa, c'è la pubblicità, ci sono ancora i vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Note al 349-238-6666, c'è tempo dopo. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. Di faccia a faccia, le inchieste, dentro notizie, gialli della storia. Poi libri, gli appuntamenti, il cinema. Tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni, critiche anche la nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, con la giusta conduttrice, anche con voi Roberta Giordano. Continuiamo quindi con i temi, passiamo a un tema completamente diverso, un tema doloroso, costante, permanente purtroppo. Prima abbiamo parlato molto di politica e di inchieste. A proposito di politica e di inchieste, devo dire che sono, alcuni ascoltatori sono veramente sorprendenti, stupendi. Perché, allora, vi ricordo c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte per i vostri commenti, oppure il numero 349-238-66. Sì, sì. Allora vi leggo due messaggi, uno completamente contrapposto all'altro rispetto a quella che percepiscono come linea qui della trasmissione. Allora, questa ascoltatrice o ascoltatore dice, non si firmano neanche, dice: fate schifo, con i veri mafiosi siete garantisti e leccaculo, con la Raggi per niente, venduti. Quindi uno che dice dalla parte evidentemente del Movimento 5 Stelle che noi siamo dei venduti, eccetera eccetera. L'altro messaggio dice: meno male che la sua collega, cioè prima Sara Monaci, la mia collega, stempera un po' il suo fervore grillino, strumentalizzazione e sentenze già date per scontate, vergogna, scrive Maurizio. Quindi anche questa sera abbiamo raggiunto la perfetta par condicio. Molto bene, adesso invece parliamo di cose serie tra pochissimo. Vi ricordo però, se avete acceso puntualmente alle 21, quali sono le notizie più importanti del giorno. Il crack dell'ex Credito Fiorentino, Denis Verdini condannato a 9 anni, l'accusa è bancarotta e truffa. L'inchiesta Consip, l'ex amministratore delegato Marroni accusa: su di me pressioni per le gare d'appalto da Tiziano Renzi e l'imprenditore Carlo Russo. Il padre dell'ex premier, che sarà interrogato domani, si difende e dice: mai preso soldi. Stati Uniti, democratici americani all'attacco del segretario della giustizia Session per i suoi rapporti con la Russia. Trump gli conferma la sua totale fiducia. Violenza contro le donne, ne parleremo purtroppo tra poco. Tragedia in montagna, 3 morti e 5 feriti per la valanga di questo pomeriggio in Val d'Aosta. Scienza ha creato il primo embrione artificiale di un topo, potrebbe essere sviluppato senza gravidanza e aiuterà a capire alcune malattie. Allora, parliamo di violenza alle donne, una notizia che ci fa tornare a parlare del tema dei femminicidi, dei tentati femminicidi e comunque della violenza maschile contro le donne. E neanche per farla apposta, è notizia di questi istanti, è arrivata questa agenzia: è morta la donna di circa 30 anni accoltellata questa sera dal marito, un uomo di 42 anni, in un'abitazione ad Iglesias in Sardegna. La giovane accoltellata appunto stasera, deceduta poco dopo l'arrivo in ospedale, è stata ferita con numerosi fendenti dal marito, di cui uno mortale alla gola al termine di un litigio in casa. E proprio di questo parliamo, di violenza sulle donne, e visto che ogni 2-3 giorni succede, quindi vi ho aggiornato anche proprio in presa diretta. E che cosa mi faceva tornare a parlare di questo argomento prima di questo ennesimo femminicidio? Vi ricordate che già l'ONU più volte, e ancora nel 2016, quindi qualche mese fa, aveva fatto un richiamo all'Italia, al nostro paese, dicendo che il femminicidio in Italia è un crimine di Stato, perché anche se l'Italia ha preso delle misure, ha cercato di mettere in campo delle politiche contro la violenza sulle donne, in realtà vengono tollerate dalle pubbliche istituzioni e non sono sufficienti per proteggere le donne dalla violenza. Questa è l'ennesima prova della notizia che vedo poco fa. Bene, oltre a questi richiami dell'ONU, la Corte Europea dei Diritti Umani ha condannato adesso l'Italia per non aver agito con sufficiente rapidità per proteggere una donna e il figlio da atti di violenza domestica da parte del marito, il quale ha ucciso nel 2013, la notte del 26 novembre 2013, il figlio di 19 anni che nell'ennesimo attacco, aggressione del marito alla moglie, era intervenuto e lui ha ucciso il figlio, ha cercato di uccidere anche lei, poi è stato arrestato. E adesso quindi per quel caso lì ci sono state delle avvocate che sono ricorse a Strasburgo, è arrivata la condanna da parte della Corte Europea dei Diritti Umani. Ne parliamo con Sara Menichetti, che è avvocata, che insieme alla collega Titti Carrano ha presentato appunto ricorso alla Corte di Strasburgo. Buonasera Menichetti. Buonasera. Io ho cercato di sintetizzare un po' la storia. Sì, diciamo, però le informazioni che ha dato sono correttissime, cioè purtroppo il figlio è morto mentre la signora venne accoltellata, però dopo 3 giorni di prognosi riservata, per fortuna la signora è sopravvissuta. Quindi poi attraverso i centri antiviolenza, in quel caso di Udine, è stata contattata la mia collega Titti Carrano, che è la presidente di Dire, e a quel punto abbiamo deciso di fare ricorso a Strasburgo. La signora è, diciamo, oggi, anche se ovviamente nessuno potrà mai restituirgli il figlio, però diciamo, è stata contenta che almeno la Corte oggi le abbia riconosciuto la dignità che lo Stato italiano, diciamo, nel 2013 le aveva, anzi prima del 2013 le aveva negato. La Corte l'ha ha condannato lo Stato italiano, ovviamente, perché è una sentenza storica, perché oltre a aver riconosciuto, quindi si parla dell'articolo 14 in combinato disposto all'articolo 2, che sarebbe la discriminazione, no? Cioè Strasburgo ha dichiarato che la signora Talpis è stata vittima di una discriminazione in quanto donna, e il fatto di non aver agito ha considerato le autorità italiane essenzialmente come coloro che hanno avvallato tale violenza. Perché è importante? Perché è la prima volta che si condanna l'Italia non alla fine dell'esaurimento dei ricorsi interni, quindi non si deve arrivare in Cassazione, ma sul fatto, cioè è stato dichiarato che le denunce che la signora Talpis ha fatto alla polizia non sono state uno strumento valido per tutelarla. Quindi non c'è stato quella tutela, quel sistema di garanzia che la Corte richiede a ogni Stato che ratifica la Convenzione. Quindi ha dichiarato il sistema giustizia Italia incompatibile con la tutela alle donne vittime di violenza. Quindi sicuramente è una sentenza che per tutte le donne vittime di violenza, ma comunque per tutte le donne, è sicuramente simbolica, non solo perché è la prima, ma perché fa una condanna molto forte allo Stato italiano. Quindi, come ricordava giustamente lei, già c'era stato appunto le commissioni delle Nazioni Unite, con la Corte effettivamente lo Stato italiano è stato condannato, quindi è stata riconosciuta questa inefficienza da parte dei nostri organi statali. Giustamente lei diceva sentenza storica, ne abbiamo compreso l'importanza, la portata, c'è sempre poi il seguito, no? di sperare che poi le istituzioni italiane, la politica, le forze dell'ordine eccetera agiscano nella direzione per evitare queste condanne, ma soprattutto per evitare tante morti e tante violenze. Ricordavo poco fa di un ennesimo caso di questa sera. È vero che ha chiesto un risarcimento anche allo Stato italiano? Allora, infatti la Corte ha condannato lo Stato a risarcire il danno morale, perché già in sentenza, diciamo, quando c'è stato l'ergastolo del marito, era stato riconosciuto alla signora un risarcimento del danno di 400.000 euro, che nessuno ancora le ha dato, però da parte dello Stato italiano. Quindi la Corte dice: io non ti do un risarcimento forte, ti do solo un risarcimento simbolico, però come danno morale è di un'entità importante, perché poi c'è il tuo Stato che comunque ti dovrà dare 400.000 euro. Poi non sappiamo se validerà, però certo, almeno il danno morale dovrà restituirlo alla signora. Su questo garantiamo noi che la signora avrà almeno i soldi della Corte, però lotteremo anche per avere quelli dello Stato italiano, sicuramente. Avvocata Sara Menichetti, io la ringrazio, vi ringrazio per il vostro lavoro, e quindi insomma continuate. E io ringrazio voi direzione. Dell'informazione. Grazie, grazie, buona serata, grazie a molte. Tutti, arrivederci. Viabilità. Faircam Air & Ocean non conosce confini, spedizioni aeree e marittime in tutto il mondo. Faircam.com vi presenta... Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, le notizie in breve. Quindi il crack dell'ex credito fiorentino Denis Verdini è stato condannato a 9 anni, l'accusa di bancarotta e truffa, l'inchiesta Consip di cui abbiamo parlato ampiamente, l'ex amministratore delegato Marroni accusa su di me pressioni per le gare d'appalto da Tiziano Renzi e l'imprenditore Carlo Russo, il padre dell'ex premier sarà interrogato domani, intanto si difende, dice mai preso soldi. Stati Uniti, ne parleremo a breve, i democratici americani all'attacco del segretario della giustizia Session per i suoi rapporti con la Russia, violenza contro le donne, ne abbiamo appena parlato. La Corte di Strasburgo condanna l'Italia, non ha protetto una madre e suo figlio dal marito violento, ed è di poco fa la notizia di una donna accoltellata a morte dal marito a Iglesias in Sardegna, tragedia in montagna, 3 morti e 5 feriti per la valanga di questo pomeriggio in Val d'Aosta, e la notizia scientifica ha creato il primo embrione artificiale di un topo, potrebbe essere sviluppato senza gravidanza, aiuterà a capire alcune malattie. E ora spazio europeo. Youzone, incontro con gli europarlamentari. Ben trovati gli ascoltatori di Radio 24 da Silvia Bernardi. I pesticidi biologici a basso rischio, compresi quelli a base di bioorganismi come i feromoni e gli oli essenziali, potrebbero sostituire quelli convenzionali, sospettati di danneggiare l'ambiente e la salute umana. I deputati si chiedono il motivo per il quale alcuni stati membri esitino o rifiutino la loro omologazione e vogliono che la Commissione proponga una revisione delle norme per accelerare il processo di approvazione. Ne parliamo con l'europarlamentare Renata Briano. I pesticidi sono una delle principali cause di perdita di biodiversità e di inquinamento dei suoli e dell'acqua. Qual è la situazione in Europa? Possiamo dire che l'Europa è, diciamo, il continente al mondo dove c'è la legislazione più severa per quanto riguarda la materia dei pesticidi e l'uso dei pesticidi. Il problema è che non si fa mai abbastanza. Certo è che tra le maggiori cause di perdita di biodiversità c'è sicuramente l'inquinamento anche da pesticidi, oltre chiaramente alla cementificazione, ai cambiamenti climatici, che generati dall'inquinamento in generale, all'agricoltura intensiva, quindi poi anche all'utilizzo appunto di queste sostanze. Chiaramente l'uso dei pesticidi è un tema importantissimo perché possono danneggiare altre specie e quindi la biodiversità. Non solo, poi possono essere pericolose anche per la salute umana. In che modo i pesticidi dannosi entrano nella nostra vita quotidiana? Hanno trovato per esempio queste sostanze, questi pesticidi chimici, addirittura nei pannolini dei neonati, quindi possiamo immaginare in quanto arrivino, no, in tutti i prodotti che noi utilizziamo e poi soprattutto in quelli alimentari. Quindi è importantissimo un principio di precauzione. Bisogna anche aumentare gli studi per capire l'eventuale e potenziale effetto cancerogeno, non solo, che potrebbero avere queste sostanze sulla nostra salute. E comunque il Parlamento europeo a larghissima maggioranza per portare avanti il principio di precauzione, proprio per questo, perché queste sostanze poi entrano nella catena alimentare e arrivano sulle nostre tavole. Come mai alcuni paesi rifiutano l'omologazione ai pesticidi a basso rischio? Diciamo che nella discussione in Parlamento ce lo siamo chiesto anche noi. Sicuramente ci sono pressioni anche da parte dello stesso mondo dell'agricoltura, che chiaramente prima di utilizzare sostanze biologiche più naturali alternative ha bisogno di un po' di tempo per sperimentarle, poi perché sostengono che alcune sostanze ad oggi sono meno efficaci, più lente. E poi sicuramente c'è una forte pressione delle case che producono queste sostanze. Noi però politicamente come Parlamento abbiamo voluto dare un segnale forte. Noi dobbiamo proporre una legislazione nuova, più avanzata, entro il 2018. È quello che abbiamo chiesto alla Commissione. Youzone, incontro con gli europarlamentari. In collaborazione con Euronet Plus. E ora colleghiamoci direttamente con gli Stati Uniti con Marco Valsani, corrispondente del Sole 24 Ore da New York. Caro Marco, perché ci sono nuovi guai per l'amministrazione Trump, ancora una volta riguardo ai rapporti con la Russia, un po' ambivalenti questi rapporti con la Russia, non le accuse iniziali di rapporti molto ravvicinati tra Trump e Putin, non le tensioni delle ultime settimane tra Mosca e Washington per gli annunci di Trump relativi all'aumento delle spese militari e l'incremento degli armamenti nucleari, ma nuove accuse di particolare contiguità con la Russia dei suoi più stretti collaboratori, non è vero Marco? Sì, così è. In particolare questa volta nella bufera è il ministro della giustizia Jeff Sessions, già inviso all'opposizione democratica, già accusato di un passato un po' oscuro e razzista. Ecco, a questo punto le nuove polemiche riguardano suoi incontri, in particolare due incontri che ha avuto con l'ambasciatore di Mosca a Washington l'anno scorso, quindi durante la campagna elettorale. Due incontri che però aveva tenuto nascosti al congresso, aveva tenuti nascosti durante le audizioni nelle quali è poi stato approvato, diciamo che hanno poi varato la sua nomina. Ecco, di fronte a questa così decisione di questa mezza menzogna al congresso, i democratici hanno alzato i toni, hanno chiesto le sue dimissioni immediate. Trump l'ha difeso, ha detto alla mia piena fiducia, ma anche alcuni leader repubblicani hanno chiesto quantomeno che si ricusi da interventi o da ruoli in qualunque indagine federale che comunque è in corso sulle interferenze russe nelle elezioni americane. Come ministro della giustizia, quindi eviti di esatto. giudicare in questi casi. Esatto, e giudicare se stesso fondamentalmente. Ecco. Tra poco lui ha preannunciato tra l'altro una conferenza stampa che dovrebbe cominciare a minuti, Jeff Sessions, e vedremo cosa dice. Probabilmente si immagina sia una difesa del suo operato, ha già fatto capire attraverso il portavoce che quei due incontri che ha avuto nel 2016 in realtà sono stati incontri che aveva avuto nelle vesti di senatore e non come esponente della campagna di Trump. Grazie Marco Valsani da New York, buona prosecuzione. Grazie a voi. Negli Stati Uniti, ciao. Vedo un'ascoltatrice, ascoltatore, dice Roberto, una domanda, ma in Europa siamo i primi anche nella violenza contro le donne oppure anche gli altri paesi sono come noi? Purtroppo leggevo poco fa una classifica e siamo in buona compagnia, ogni latitudine e anche in Europa la violenza maschile contro le donne, insomma, non fa molta differenza geografica. Ci dobbiamo adesso lasciare e poi ci riaggiorniamo come al solito brevemente alle 22.